Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ladies and gentlemen of Cleveland, boxing fans everywhere. Tonight that belt will be presented to Muhammad Ali. È il 24 marzo 1975. Siamo a Cleveland. Le voci e urla che sentite provengono dalla Richfield Arena. Lì si sta per svolgere un incontro di box. In palio la corona mondiale dei pesi massimi. Il più grande pugile della storia, Muhammad Ali, è il campione in carica. È il primo ad avere unificato il titolo dei due circuiti allora esistenti, il WBA e il WBC. È uno dei soli due pugili al mondo ad avere conquistato il titolo mondiale per due volte. Ma Ali è più di un pugile, è un'icona, un simbolo, è una leggenda. Di fronte a lui questa notte, Chuck Wepner. Bianco americano di 36 anni, poco più di uno sparring partner, poco più di un nulla davanti alla grandezza di Ali. Un incontro che non c'entra nulla con i grandi match che hanno fatto diventare Ali il più grande, ma che diventa importantissimo perché si incrocia con la vita di un uomo che conosceremo più avanti. Ma perché un avversario come Wepner? E perché proprio a Cleveland? La risposta è una sola. Don King, il promoter, di impressario, come viene chiamato un uomo con un incredibile fiuto per gli affari e i grandi avvenimenti, che va in giro con i capelli di una rockstar. Don King è nato a Cleveland e desidera organizzare un incontro nella sua città e chiede ad Ali la disponibilità a combattere. Quindi si getta alla ricerca di un avversario non troppo difficile per il più grande. La scelta cade, come abbiamo visto, su Chuck Wepner. Non proprio un brocco, Chuck, ma ha capito che con la box non diventerà mai milionario. Allora ha avviato un'attività di vendita di liquori e fa il pugile part-time. È quello che ci vuole. Non è allenato, la faccia gli si spacca facilmente e ha un coraggio straordinario e una resistenza che sino ad ora non lo ha mai visto KO. Ma su questo Ali non è molto d'accordo. Sentite cosa ha detto in una trasmissione televisiva. Non sei mai andato a terra. Liston è andato a terra, Foreman è andato a terra, Fraser è andato a terra, andrai a terra anche tu. Per Chuck Wepner, pugile bianco di 36 anni, la vita cambia in un istante. Sono stravaccato sul divano una sera. Il telefono squilla. Sto guardando Kojak alla tele. Guardo sempre Kojak alle 11. È iniziato da poco. Alzo il telefono, è mia madre. Le dico di non disturbarmi quando guardo Kojak. Lei sa che mi piace. Ma lei insiste e mi chiede di guardare il giornale alla pagina dello sport. Io non ce l'avevo il giornale, lei me lo legge. Riportava la notizia che Ali avrebbe difeso il titolo contro Wepner. Il fatto era che Don King era a Cleveland per fare un evento promozionale con Ali. Don King, il più grande manager e promoter di box, era di Cleveland e d'accordo con Ali annuncia alla stampa che io sarei stato lo sfidante. Che cosa potevo fare? Ho raccattato le ultime copie del giornale con l'annuncio che ho trovato e le ho messe da parte. Il resto è storia. This is the end. Com'è storia che all'inizio di quel 1975 gli Stati Uniti sono ancora scottati dalle ultime fasi del conflitto vietnamita. La guerra che per 11 lunghi anni ha falciato intere generazioni di giovani americani e ha causato la morte di milioni di civili inermi. Nell'aprile 1975, un elicottero Bell 205 ha i motori accesi mentre carica alcuni impiegati della CIA sul tetto dei Pittman Apartments. Una nave militare li sta aspettando al largo di Saigon, ormai occupata dai Viet Cong, la futura Ho Chi Minh. È la fine. Cessa uno dei grandi motivi di divisione ideologica negli Stati Uniti. To me. Il Vietnam ha risucchiato un'intera generazione di giovani americani. Muhammad Ali si era rifiutato di combattere. Per questo è stato allontanato dal ring per alcuni anni. Non ho niente contro i Viet Cong. Loro non mi hanno mai chiamato negro. Ma ritorniamo a Chuck Wepner. Nasce il 26 febbraio 1939 a Bayonne, una piccola cittadina nel New Jersey. È un pugile peso massimo, un grande coraggio, tanti punti sulla faccia. Ha già 36 anni e alle spalle una carriera che lo ha visto incontrare due campioni mondiali, Foreman e Liston. Sarà uno dei pochi a poter vantare l'incontro con un terzo campione, il più grande, Muhammad Ali. Lo chiamano l'azzuffatore di Bayonne. Negli anni 50, tra scaricatori di porto, serate alcoliche e pochi passatempi, è facile farsi strada a suon di cazzotti. Bayonne è un gigantesco molo dove attraccano navi mercantili da ogni parte del mondo. Si vede la Statua della Libertà, si vedono le Torri Gemelle. Ma Charles Wepner è riuscito a dirigere la sua aggressività sul sacco. Così da rissoso, The Brawler, è diventato il sanguinolento, The Bleeder. 2 metri di fisico, una faccia da bambino che si spacca al primo jab, come la pellicina di un pomodoro maturo. Però ha coraggio, tanto coraggio. Da Bayonne si vede lo skyline di Manhattan, oltre la baia, oltre il fiume. Si vede il paradiso. Mentre lui a Bayonne sta all'inferno. È la solita storia. Ma Chuck riesce a tenersi a galla. Ora lo separano solo 460 miglia da Cleveland, Ohio. Wepner, la speranza bianca, come lo ha soprannominato Ali, non avrebbe sperato in un terzo incontro per il titolo alla sua età, ma ecco che arriva, e con Ali poi. Dagli spogliatoi Wepner sente il vocio del pubblico, il presentatore che parla al microfono, l'odore di birra e di popcorn. Chuck è l'agnello sacrificale, manca solo lui ormai. Le bende alle mani ci mette sempre tanto a metterle, ma quelle mani ferme, ben fasciate, gli danno sicurezza. Allora sente che può prenderne tante, ma tante, senza cadere al tappeto. Ha coraggio da vendere, Chuck. D'altronde è già sopravvissuto a 2 calamità naturali che si chiamano Sonny Liston e George Foreman. Ha perso, sì, ma senza andare al tappeto. I medici lo hanno ritirato con le guance che piangevano sangue come un bambino. Il preparatore, il Catman, quell'uomo che tra i secondi ha un unico scopo, quello di fermarti le emorragie e chiudere i tagli, adesso gli sta ingrassando sopracciglia e zigomi. È come difendere un argine con la sabbia. Sarà Chuck Wepner la vittima sacrificale sull'altare di Muhammad Ali? Nel 75 se lo chiedono anche i fratelli neri e i tifosi bianchi di Ali, che a casa propria possono schiacciare il tasto record per la prima volta e registrare l'incontro del loro idolo. È l'anno infatti di una piccola rivoluzione nei media. La Sony fa uscire il Betamax, il primo videoregistratore domestico. Video a Sony Betamax. È l'inizio dell'home entertainment. Oh, oh, oh. Bill Gates e Paul Allen sviluppano i primi codici del BASIC. Tra poco uscirà il primo personal computer. Al cinema esce Tommy degli Who, un film generazionale. E in cima alle classifiche, nel marzo 75, c'è Carl Douglas con Kung Fu Fighting. Everybody was Kung Fu Fighting. Viaggio a destini incrociati prosegue. La Richfield Arena è gremita. Gli americani che avevano visto il campione battere al tappeto Foreman solo 6 mesi prima a Kinshasa, in Zaire, in collegamento via satellite, hanno ora la possibilità di vedere in azione il più grande dal vivo e vedere di nuovo la strategia di combattimento di Ali, il cosiddetto ropa-dopa, inaugurato proprio contro George Foreman. Ma cosa vuol dire ropa-dopa? Il pugile si adagiava sulle corde del ring con i guantoni a proteggere solo il volto e lasciava che l'avversario scaricasse tutte le sue energie sul corpo, ammortizzato dalle corde. Colpi ai reni, colpi al fegato, sulla schiena, ma mai in faccia. Intanto parole, schermi, provocazioni. Sono 6 minuti, sono pugni da 6 minuti. Quando l'avversario era completamente esausto, sia fisicamente che mentalmente, Ali riprendeva in mano il match, andando all'attacco e spesso chiudendo la partita con un KO. Vedremo tra poco se Ali metterà in pratica questa strategia. Intanto è il momento delle celebrazioni. Sul palco Ali abbraccia un amico. È James Brown, the Godfather of Soul. Vuole dare il benvenuto al campione. Anche lui era presente a Kinshasa 6 mesi prima. Ed è qui per cantare l'inno nazionale, Star Spangled Banner. Ha i baffi James, i capelli impomatati come al solito. Indossa un completo pantalone giubbottino rosso sangue. Si capisce subito che è una serata particolare. James Brown, alla fine della canzone, cambia la melodia tra lo sconcerto degli organizzatori e del pubblico e trasforma l'inno in una rivendicazione di libertà per i neri d'America. Ride il pubblico, ride Don King, ride il manager di Ali. È la festa della rivincita nera. L'unico che non ride è Chuck Wepner. Mi ero preparato bene. Quando siamo partiti per il ritiro, 7 settimane prima del match, ero con gli allenatori e gli sparring partner. Avevamo un bel albergo con tutto quello che ci serviva, una vita blindata. Quella sera ero nervoso, sì, ma stavo bene. Sapevo che sarebbe stata una serata in diretta nazionale, dai 50 ai 60 milioni di spettatori. Ero eccitato, ma non preoccupato, no, al diavolo l'età. Mi ero preparato bene per l'incontro. Allenamenti tosti per 7 settimane. Sveglio alle 8, colazione abbondante, 10 chilometri di corsa e il mio allenatore che mi segue dietro in macchina. 7-8 rounds combattuti ogni giorno con sparring partner buoni, mica mezze calzette. Un buon pasto e di nuovo sul ring ad affinare movimenti e tecnica. Insomma, ero pronto. Ma che significa essere pronti? Wepner è pronto, Ali è pronto, il match può iniziare. Wepner parte aggressivo, a testa bassa sul ring e a testa alta nel cuore. Insegue il campione che non la smette di saltellare di qui e di là, mollando jab sinistri di continuo che raramente mancano il bersaglio. Fanno un rumore quei jab, un rumore morbido e al tempo stesso secco, come un sacchetto di monetine che cade sul tavolo, come le maracas in un ballo latino. È uno stillicidio di punti a favore di Ali, altro che prime schermaglie. Ali si chiude nel suo guscio. È il primo passaggio della strategia ropa-dopa. Wepner gli si butta addosso con jab e ganci al limite della correttezza, tutti puntati alla nuca. Secondo round. Ali sfodera un paio di combinazioni di classe, quegli 1-2 che lo hanno reso un mito. E la faccia di Wepner diventa rossa, non di vergogna, ma di sangue. Non è uno di cattivi pensieri, ma pensa tanto, Chuck, mentre è all'angolo tra il secondo e il terzo round. E i secondi gli spalmano la faccia di niente. Sorride fra sé pensando alla frase detta alla moglie prima del match. Avevo comprato a mia moglie un negligé di raso color blu notte e le avevo detto: stanotte indossa questo perché dormirai con il peso massimo campione del mondo. Quella sera dopo l'incontro mi chiese: vado direttamente nella sua camera d'albergo o verrà Ali a trovarmi? Ormai l'avrete capito, Ali non mollerà il suo scettro, ma in quel 75 a farlo sarà l'intera amministrazione politica americana. I want to talk to you tonight from my heart. Con Richard Nixon travolto dallo scandalo del Watergate, vengono arrestati tutti i responsabili dell'affare. Anche Francisco Franco molla la seggiola in Spagna. È l'inizio di un'altra grande democrazia, quella spagnola. Bobby Fischer rifiuta di giocare la partita di scacchi mondiale con Anatoly Karpov, che vince a tavolino. Insomma, russi e americani non riescono proprio a dialogare. È una specie di risveglio collettivo il 75. Tra depressione economica o crisi energetica, il che poi non è tanto diverso, ci sono i germi di una rinascita. Le grandi contestazioni hanno gettato il seme e le nuove generazioni sono tutte impegnate a ricostruire, a creare un nuovo ordine o semplicemente a seguire l'ispirazione. A maggio del 75, Bruce Springsteen pubblica il suo disco Born to Run. Con Born to Run inizia l'era del boss. Suicide machines sprung from cages on highway Destini incrociati. A Destini Incrociati è il 24 marzo 1975. Siamo alla Cleveland Arena. Muhammad Ali, il più grande pugile della storia contemporanea, difende il titolo contro la speranza dei bianchi, Chuck Wepner. Un incontro senza storia, se non fosse che la classe e la potenza di Ali si scontrano con il coraggio di un uomo che non ha nulla da perdere. Tra il pubblico un perfetto sconosciuto che fa parte della nostra storia. E tra poco scopriremo chi è. Tra i 14.000 spettatori di quell'incontro di box c'è un giovane attore di 29 anni con in mano due biglietti e una donna al suo fianco. Magari i biglietti glieli ha passati il suo agente, magari li ha comprati dai bagarini intorno ai parcheggi. Lui e Sasha, la giovane moglie, sono arrivati tardi mentre James Brown sta intonando l'inno americano e il match sta per iniziare. Prende posto velocemente tra la folla. Si chiama Silvestro Gardenzio Stallone. Silvestro Gardenzio Stallone. Chi è Sylvester Stallone? Nasce il 6 luglio 1946 a New York, nel quartiere malfamato di Hell's Kitchen. Inutile dire che oggi è diventato un posto alla moda, ma lì nel 46 non sarebbe stato consigliabile fare quattro passi. I poliziotti viaggiavano sempre e solo in coppia. Sylvester ha un carattere forte, deciso, è abituato a cavarsela sempre e a modo suo. Per capire di più occorre conoscere la sua infanzia. Nei primi anni di New York la famiglia se la passa male. La madre beve, il padre non ce la fa più. Alla inevitabile separazione, Sylvester si trasferisce dal padre nel Maryland. A scuola non va granché bene, ma compiuti i 15 anni ritorna dalla madre a Filadelfia. Di nuovo male a scuola, ma bene, anzi benissimo con lo sport. Vince una borsa di studio per meriti sportivi e va a Miami all'Università di Arte Drammatica, dove conosce Sasha. Cosa lo porta quella sera a Cleveland? Ha la macchina nuova e il pieno nel serbatoio. Oggi niente lavoro. Lui fa la maschera nei cinema, solo che oggi non ne ha voglia. Al cinema vede e si rivede le pellicole mille volte. Lui che non ha concluso la scuola d'arte ed è per lo più un autodidatta. Fare la maschera infatti gli insegna tante cose. Le inquadrature, la costruzione dei dialoghi, le facce degli attori. Scopre quelli che recitano con l'anima e quelli che sanno solo la parte a memoria. In sala ci va per respirare quell'aria. Lo mette di buon umore, l'odore di burro denso dei popcorn, quello acre del disinfettante sulla moquette, il rumore sordo del proiettore. È molto meglio che nella squallida stanza in affitto dove vive. Ha un fisico da palestrate e una grande testardaggine che gli hanno fatto rimediare qualche particina. Due pose per $200 al giorno in un porno soft di cui poi si pentirà amaramente e una comparsata in un film di Woody Allen, il dittatore dello Stato Libero di Bananas. Credevo di essere in gran forma e di metterla alle corde. Quando mi ha toccato al bersaglio grosso, di fiato ne avevo. Ero ben allenato per questo e io ho dato il 100%. Abitavo a New York in un appartamento. Beh, forse non è giusto chiamarlo appartamento. Si poteva chiudere la finestra e aprire la porta d'ingresso mentre si era seduti sul letto. Però la cosa buona di quella stanza era che non c'erano distrazioni. Potevo sdraiarmi sul mio letto a scrivere per ore. Quel 24 marzo Sylvester è nella sua macchina. Ha da fare 463 miglia per pensare, per capire se è solo sfortuna o se non ha proprio la stoffa per fare l'attore. No, quel pensiero non lo vuole nemmeno sfiorare. Si concentra per un attimo su una raccomandazione di sua madre. Non bisogna mai mollare, Sylvester, mai. Lui è fisso sull'Highway 80, un nastro di asfalto grigio diretto sino al Richfield Coliseum di Cleveland. E stasera vuole vedere Ali dal vivo. Ali. Il più grande. Alla Richfield Arena di Cleveland, quello che vidi mi sembrò subito straordinario. C'era quell'uomo chiamato The Bayonne Bleeder, che non aveva una possibilità, e dico una, contro una macchina da combattimento come Ali. Avere almeno una possibilità, per Sylvester è questo che conta. Possibile che la fortuna non sia mai girata una volta nel senso giusto. Eppure non fa come la maggior parte dei giovani attori che si ammassano a fare provini su provini per rimediare una parte. Si sbatte, Sylvester. Lui vuole crederci fino in fondo e vuole conoscere ogni sfumatura di questo mondo. Il più delle volte è l'istinto che gli indica la strada, ma oggi non è serata. Ha passato tutta l'infanzia a combattere contro tanti problemi. Il rachitismo, la piccola paresi alla faccia procurata dal forcipe. Un attrezzo che dovrebbe aiutare a nascere, invece ti segna per sempre. Quella paresi che lo condiziona con le ragazze, figuriamoci con la cinepresa. Dalla scuola fino al set, la presa in giro dei compagni e dei colleghi arriva sempre puntuale. Cosa fai? Piangi o ridi, Sylvester? In fondo Sylvester lo sa che non c'è differenza, lo sa che bisogna avere tanta ironia. E l'ironia si ha se hai sofferto. All the Ha un fisico da atleta, Sylvester. Il rachitismo è un lontano ricordo. La mamma ci ha saputo fare a Filadelfia. Ha aperto una palestra per lui, come a volergli restituire ciò che non gli aveva potuto dare nel grembo. La cosa più importante ora è godersi il match. Contro chi combatte Ali? Non importa. C'è James Brown che canta. Una bella idea, quella di aprire il match con un cantante solo. Ali ha i pantaloncini bianchi. È un alfiere nero, è il più grande. Il suo avversario ha una stazza imponente. I pantaloncini bicolore blu e rossi, i colori dell'America. Ali ha messo giù Foreman solo 6 mesi prima. È il mito americano, è l'America. Si potrebbe girare un film su di lui. Ma a Sylvester piacciono le storie degli emarginati, di quelli che perdono, sì, ma con dignità. Di quelli che soffrono e che se vedono la gloria è solo negli occhi dell'altro. Una strana atmosfera quella del match. Sylvester ha dimenticato tutti i suoi cattivi pensieri adesso. E dentro quella lotta guarda Wepner, il vecchio 36enne senza paura, il pubblico che non lo incita. Comincia a stargli simpatico, quel bestione coi calzoni blu e rossi, i colori del suo paese. Il manager porta una camicia con su scritto Chuck Wepner USA e ogni volta che va all'angolo gli ripassa il grasso sulle sopracciglia. Siamo al 9th round, in mezzo a una bolgia infernale. Sylvester vede in Wepner lo sguardo smarrito di chi sta esaurendo tutte le energie. Continua a sferrare pugni quel bianco di Bayonne, ma lì col suo ropa-dop è ora sgusciante, veloce. Ora invece si appoggia alle corde e lascia che il bisonte sfoghi la sua rabbia. Ma ecco che Chuck trova la forza di fermare il ballo ossessivo di Ali. Lo blocca con un pestone al piede, gli dà un gancio sul tronco e l'eroe cade a terra come un sacco di patate. Per un brevissimo istante, questo perdente si trasformò in un magnifico pugile. Non solo capace di stare in piedi, ma di far cadere al tappeto il campione. E mi dissi in quel momento, cazzo Sly, questo è il momento di una vita. La sua vita cristallizzata in quell'istante. Lui verrà ricordato per l'eternità da tutti gli amanti della boxe. Mi dissi, questo è quello che sto cercando. La storia di un uomo che rimane in piedi nella vita e con un pugno forse fa la differenza. Eccolo, il momento di una vita. Sylvester fa una smorfia, l'unica che sa fare. Ali che viene contato, non ci crede. In un attimo scorge Wepner che cerca lo sguardo del manager. A Sylvester sembra di riuscire a leggergli le parole sulle labbra. Con Ali al tappeto mi giro verso Allen, il mio manager, e gli dico «Accendi la macchina che andiamo in banca, siamo milionari». Poi mi volto verso Ali. Lui è incazzato nero. L'arbitro non lo conta nemmeno. Mi dico «Adesso si mette proprio male». Poi ho pensato «Sono sempre stato un sopravvissuto nella mia vita. Se sono sopravvissuto ai Marines posso sopravvivere anche ad Ali, maledizione». Il mio pugno lo aveva fatto finire tra le corde. Se fosse caduto fuori dal ring avrei vinto anche se di fortuna. Ali aveva gli occhi spalancati. Non credo proprio di rabbia, ma di sorpresa. Comunque è vero, è stata fortuna. Quel pugno gli fece solo perdere l'equilibrio. Adesso i 14.000 della Richfield Arena hanno cambiato il tifo. La folla non incita più Ali, ma quel semi sconosciuto di Bayonne. Sylvester capisce quanto la gloria sia questione di un attimo, di una scintilla o di semplice casualità. Quel match violento, senza storia, quel pugile sconosciuto e coraggioso, sono pezzi di un puzzle che si sta componendo nella sua testa. Adesso il divertimento per lo spettacolo si trasforma in attenzione spasmodica per i dettagli. Destini incrociati è alla Richfield Arena di Cleveland, un 24 marzo del 1975. Sullo sfondo dell'incontro tra Muhammad Ali e Chuck Wepner, un giovane attore americano, Sylvester Stallone, sta immaginando il suo futuro. Destini incrociati. Destini incrociati all'arena di Cleveland a guardare Mohamed Ali che difende il titolo contro Chuck Wepner, il bianco sanguinolento di Bayonne. Tra il pubblico c'è un giovane attore di New York. È arrivato per applaudire Ali. Ora sta ammirando il coraggio e l'ostinazione di Wepner. Si chiama Sylvester Stallone e a lui piacciono sia il coraggio che l'ostinazione, anche se adesso quell'incontro valido per il titolo da esibizione si sta trasformando in esecuzione. Chuck però non cade mai. Chuck non cade neanche quando la sua faccia si fa viola e il sangue gli impedisce di vedere l'arbitro che gli grida «Quante sono?», mostrandogli qualche falange della mano davanti alla maschera di sangue. Lui spara, tre, spara a caso, e il match può andare avanti. Fortuna o sfortuna, visto che Ali continua imperterrito a colpirlo. A Sylvester vengono in mente le sale di attesa, le liste per i provini, le telefonate della gente, le prove, mandare a memoria i copioni, gli allenamenti in palestra, l'infanzia, a Hell's Kitchen. E la sua faccia fa quella smorfia incontrollata a metà strada tra un sorriso e il pianto, tra la gloria e la disperazione. La disperazione è quella di Chuck Wepner, che continua a prendere pugni al buio. Non sa da dove, ma arrivano puntuali, sull'arcata, sugli zigomi. Conta i punti che prenderà Chuck, ma col cavolo che finirà al tappeto. Alla fine dell'incontro, il medico gli praticherà 72 nodi sulla pelle. Quanto potrà durare ancora? Siamo alla 15ª ripresa, alla fine. Chuck ha un buco sopra l'occhio destro. Abbraccia Ali come se lo amasse, ma Ali continua a rullare pugni, incredulo che non voglia accasciarsi al tappeto. Adesso gli pare anche che lo rispetti Ali. Il più grande è stanco, anche lui ha gli occhi sbarrati. E Chuck Wepner accenna a qualche timido contrattacco. E la 15ª ripresa è l'ultima, è finita. No che non è finita. Ali sfodera il suo destro, centra Chuck al volto. Il mondo va giù in uno schianto. Chuck Wepner si aggrappa alle corde, stordito. L'arbitro incrocia ed allarga le braccia più volte. Decreta la fine, ma lui non è caduto al tappeto, anche questa volta non è caduto. È un KO tecnico. Per la prima volta nella mia carriera sono stato colpito da un pugno al 15° round e sono finito sulle corde. Non si è trattato di un colpo secco, mi ha preso di piatto sulla guancia, ma ero veramente stanco. I muscoli mi tremavano dalla stanchezza e sono andato giù, mi sono aggrappato, l'arbitro mi ha contato fino al 7, l'8, mi ha chiesto dove fossi e poi ha fermato l'incontro. Mancavano 19 secondi al gong, capisci? 19 secondi. Se l'arbitro l'avesse saputo non avrebbe fermato quel match. Sylvester abbraccia sua moglie. Come un bambino felice ha visto il suo film, un film tutto da girare. Sylvester ha appena visto il suo Rocky Balboa soccombere contro Apollo Creed. Non lo sa ancora, ma lo sente. Prende Sasha per la mano e corre giù per le scale al parcheggio, altre 463 miglia verso New York. Deve scrivere, Sylvester, ha una storia in testa e deve tirarla fuori, subito. Rientrati nella squallida stanza in affitto, Sylvester è come un automa. Alla luce di una candela con le finestre sbarrate e la sola presenza di Sasha, scrive e riscrive in 3 giorni il soggetto della sua vita, Rocky. In 3 giorni passati nel mio buco a scrivere, riesco a completare la sceneggiatura. È un blocco di, mi pare, 90 pagine. Probabilmente il 10% di quella roba è rimasto nella sceneggiatura definitiva. Ma non aveva importanza. Avevo scritto la storia. Ne è venuto fuori un film dai toni scuri. Allora, in quegli anni, andavano molti i film sugli antieroi. E Chuck Wepner? La borsa del perdente è di $100,000, una fortuna per lui. Ha avuto il suo momento di gloria. Per quanto ancora potrà combattere? 1, 2, 5 anni? Dopo qualche settimana si fa avanti un attore sconosciuto, tale Sylvester Stallone. Gli dice che ha scritto una storia su di lui e che vuole farne un film. Gli offre una scelta. $75,000 maledetti e subito, per trarre un libro soggetto dalla sua vita, o l'1% degli incassi. Si intitolerà Rocky. C'è da farsi domande? Chuck Wepner intasca i 75.000 senza battere ciglio. D'altronde chi è questo Sylvester Stallone? L'1% di zero è zero. Ho incontrato Bob Chartoff e Irwin Winkler, dei produttori. Pensai di essere stato chiamato per un casting. Parliamo un po' e capiamo che non sono adatto per la parte del film che stavano producendo. Poi tra le chiacchiere gli dico che scrivo e che ho delle storie, una in particolare sul mondo della box. Mi rispondono: ah, davvero? E così cominciamo a parlarne. Mi chiedono di portar loro il materiale. Dopo quel momento ho sempre pensato che se non mi fossi fermato sulla porta e non avessi parlato del mio script, forse non sarei qui a raccontare questa storia, che è la mia storia di vita. È la morale. Non mollate mai, continuate a parlare. Devo ringraziare quei due uomini, con quella curiosità e voglia di afferrare ogni opportunità. Oggi non ci sono più persone così. Sylvester Stallone deve a Rocky il suo successo. I produttori accettano di realizzare il film, ma propongono un attore protagonista diverso: James Caan, Robert Redford, Burt Reynolds. Ma lui non ci sta a fare solo lo sceneggiatore, vuole fare la parte del protagonista e sa già come interpretarla. Ai produttori piacque lo script, ma avevano altre idee su chi avrebbe dovuto interpretare il protagonista. E non potevo certo biasimarli. Io non ero nessuno e i nomi che facevano erano davvero i migliori del tempo. Ma c'era qualcosa dentro di me che mi diceva: Sly, questa opportunità non ti passa davanti una seconda volta. E io davvero non avevo alcuna esperienza di soldi, e la tentazione di accettare la loro proposta era forte. 25.000, 100.000, a me che avevo qualche centinaio di dollari in banca. Poi mi hanno offerto 140.000 dollari, che salgono a 250. Girava la testa, arrivano a 360.000. Cerco di guardarmi dentro e gli dico: non sono abituato alla bella vita. Questi soldi significano poco per me. Io so che se il film avrà successo senza che io abbia interpretato il protagonista, allora per me sarà una sconfitta ancora maggiore e mi butterò sotto un treno. E non c'è dubbio, quel momento è stato come tirare i dadi e dirsi: potrò sbagliarmi e portare al fallimento con me un sacco di altra gente, ma io ci credo e voglio andare avanti. E allora avanti con la sceneggiatura, l'allenamento nel mattatoio, la colazione con 4 uova crude nel latte, l'ambientazione a Filadelfia. La storia d'amore muta fatta di sguardi timidi con Adriana. Sly ha tutto in mente. E i risultati sono straordinari. 10 nomination agli Oscar. Vincerà la migliore fotografia, il migliore attore protagonista, la migliore sceneggiatura. Batte quell'anno film come Taxi Driver di Martin Scorsese, Quinto Potere di Sidney Lumet, Tutti gli uomini del presidente. Con $1.5 milioni di dollari di investimento, il film ne incassa più di 120 solo in America. Sylvester Stallone, I'd like to thank you for sharing your dream of Rocky with us. È l'inizio di una carriera straordinaria. And to all the Rockies in the world, I love you. Chuck Wepner concluderà la sua carriera nel 1980, dopo alcune esibizioni contro giganti umani, proprio come Rocky Balboa negli episodi successivi della saga. In questi ultimi anni Chuck ha fatto causa alla produzione per vedere riconosciuto il suo diritto a beneficiare dei proventi del film. L'ultima sua battaglia viene così vinta nelle aule di tribunale. Oggi vive con la moglie Lisa a Bayonne, dove accetta volentieri di parlare di quel lunedì che gli ha cambiato la vita. Sperava di vincere almeno un record, quello dei punti di sutura al volto. Ma un altro campione della box gli ha sottratto il primato. Si chiama Vito Antuofermo, italiano. 359 punti contro 329. Ma questa è un'altra storia. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini.